Spero di non offendere nessuno, in particolare gli amici e gli ascoltatori valtellinesi, ma io alla classifica annuale del Sole 24 Ore, quella secondo cui il posto migliore in cui vivere in questo nostro travagliato paese è la città di Sondrio, ecco, non riesco proprio a credere. Non che intenda negare pregi e bellezze di quel capoluogo alpino, che non conosco direttamente ma di cui non ho sentito dire che meraviglie, non mi passa neanche per la testa di mettere in discussione i dati oggettivi in base a cui la classifica è stata elaborata. Io sono sicurissimo che il suo reddito è alto e la bellezza di 34 milioni a cranio, è il secondo posto dopo la nostra, che ne recapitano 62, ma non ci credo. Che la criminalità giovanile ha meno possibilità di attecchire che le palme sul crinale del Bernina, che la media dei furti di auto per 100.000 abitanti attestata su un ridicolo 53, a Palermo sono 784, e che quella degli omicidi con un misero 0,6 è praticamente irrilevante. Ma se vi dicessi che tutto questo accende in me il desiderio impellente di trasferirmi a Sondrio, o quanto a questo a Bolzano, da Aosta, a Belluno, tutte le città che negli anni scorsi avevano nella stessa classifica la posizione di testa, se ve lo dicessi credo proprio che mentirei. Sarà perché la mia età temo il freddo, detesto la neve, e l'idea di vedere il sole sparire all'improvviso dietro una cresta aguzza di monti mi procura un'angoscia insostenibile. Ma è anche vero che Reggio Emilia e Forlì, che con un percentuale più o meno simili detengono il secondo e il terzo posto, sono in pianura e, sempre senza offesa per nessuno, sono altrettanto lontane dal mio ideale di luogo in cui vivere. Sì, lo so cosa state per ricordarmi. State per dirmi che i miei ideali, termine un po' pomposo che nel contesto indica solo le mie preferenze, i miei personali criteri di scelta, che comunque in faccende come queste non interessano a nessuno. Le graduatorie di questo tipo si fondano su basi statistiche, e l'assioma base delle statistiche è quello per cui non hanno un significato particolare per i singoli individui. Dire che in un posto X c'è un certo livello medio di tenore di vita non garantisce che ne godano tutti i suoi abitanti. Il fatto che la media degli omicidi per 100.000 abitanti sia dello 0,6 consolerà pochissimo quel singolo sfigatissimo 1 su 166.666 che viene comunque accoppato. Il fatto che al cittadino Oliva non piaccia l'idea di vivere tra i monti non esclude in alcun modo che il posto migliore in cui vivere statisticamente parlando sia in alta montagna, e ci mancherebbe altro. Le preferenze personali contano, sì, ma anche loro vanno censite e ordinate secondo apposite procedure. D'accordo. Però tutto questo è vero solo fino a un certo punto, Perché il problema, se ci pensiamo un momento, non è quello del valore delle statistiche, è quello della definizione dei criteri con cui si fanno le statistiche. A me, per dirne una, piace il mare. E per di più, ho sempre pensato che una città, per essere veramente degna di viverci, debba aver fatto parte in qualche fase della sua storia dell'impero bizantino. Questo significa che se proprio dovessi lasciare Milano, che arranca dalle parti del 58esimo posto, potrei scegliere un qualche centro abitato collocato ancora più in basso. Ammetto che questi sono criteri affatto personali, non ho niente da obiettare se per definire quella classifica nessuno li ha impiegati, però anche quello del reddito medio pro capite, in fondo, è un criterio affatto personale di chi lo ha scelto, preferendolo, tanto per dirne una, non so, quello dell'equità nella distribuzione del reddito. Ricevere lettere da entro 24 ore da quando sono impostato è una bella cosa, ma in termini di soddisfazione personale molto dipende da cosa c'è scritto sopra. Nessuno esulterà per una comunicazione di licenziamento o per un invito a partire seduta stante per il fronte, per quanto celermente recapitati. Che i tempi necessari per incassare la prima rata della pensione siano brevi, anche questo è un criterio utilizzato. È una cosa altamente auspicabile, ma non al punto da farci auspicare che passino le attuali ipotesi di riforma delle pensioni, secondo le quali quel tempo potrebbe ridursi tranquillamente a zero, nel senso che buona parte degli aventi diritto avranno ampie possibilità di crepare direttamente sul posto di lavoro. L'economia è l'economia, certo, ed è sempre meglio vivere in un paese ricco che in un paese povero, figuriamoci, ma non è scritto da nessuna parte che il numero di banche popolari e la solidità dei loro bilanci determinano la felicità di altri che non dei loro azionisti e manager. Il benessere può essere visto come un dato da rilevare, se ci credete, ma anche come un obiettivo da perseguire. E come diceva il vecchio Marx, no, non vi scandalizzate, come diceva il vecchio Marx, quando il problema è quello di raggiungere un obiettivo e in campo sociale l'attività necessaria si chiama politica, allora più che dall'economia è meglio partire dalla critica dell'economia. In realtà l'unica informazione veramente certa che le classifiche come quelle di cui sopra aiutano ad acquisire riguarda il modello di cittadino che i loro estensori hanno in mente. Un cittadino a cui sta a cuore il livello di ricchezza a prescindere dalla sua distribuzione, evidentemente perché delle lire che girano la più parte via lui, che si preoccupa della solidità delle banche in cui fare i suoi investimenti, che apprezza il funzionamento dei servizi, la pulizia dell'aria, la tranquillità sociale e la possibilità di lasciare fuori strada parcheggiato all'aperto senza che glielo freghino. E se la disoccupazione cresce, assolutamente cresce, con un correlato diffondersi dell'alcolismo, si diffonde, e il crescere della percentuale dei suicidi giovanili, è la più alta del paese lassù, quel cittadino non se ne cura più di tanto, perché in fondo non sono affari suoi, anzi un certo tasso fisiologico di disoccupazione, come si dice, tiene basso il mercato del lavoro ed è la condizione di un sano andamento dell'economia. Questo ideale di cittadino non rappresenta ovviamente il cittadino medio di Sondrio, ne sono sicuro, però può essere bene il punto di riferimento del Sole 24 Ore, il giornale che notoriamente è un ottimo supplemento culturale, ma com'è come non è, è sempre l'organo della Confindustria. Dietro l'oggettività di qualsiasi indagine, in fondo, si finisce sempre per ritrovare gli interessi di chi la promuove. E poi questo non inficia neanche sempre la serietà della ricerca, basta solo saperlo. Quando ti faccio cenno, ammettila già giù, te lo faccio qualche secondo prima della chiusura.